Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi oggi al telefono Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi trattiamo un argomento che credo sia caro un po' a tutti quanti noi, perché ormai credo il 90% delle persone possiede uno smartphone e quindi con questo poi viaggia sulla rete, no? Quindi c'è la possibilità di utilizzare il servizio delle telefonate con un telefono normale, ma anche di utilizzare i dati per accedere a internet, alla rete, utilizzare poi le varie app che sono di largo uso come WhatsApp e Facebook e quant'altro. Sicuramente oggi siamo alla vigilia di una data storica, una data che sicuramente le associazioni dei consumatori, delle quali anche l'Adico, accolgono con grande entusiasmo, perché finalmente dopo anni e anni di pressioni siamo riusciti a ottenere un risultato importante, ed è proprio quello del 15 giugno, prevede che qualsiasi persona che viaggia nell'ambito della comunità europea non debba più sostenere costi aggiuntivi per navigare in internet o per telefonare, ma si vedrà solamente pagare quello che è previsto dal suo contratto, quindi praticamente ci sarà la fine del roaming. Ecco, notizia importante, la fine del roaming, che significa per esempio che se io attualmente ancora per questa settimana prendo e vado in Austria per telefonare, io avrò un sovrapprezzo nella telefonata, no? Sì, oggi praticamente era così, poi accadeva che molte persone quando andavano all'estero magari non telefonavano per paura di spendere, ma si dimenticavano di scollegare lo smartphone dalla ricezione del traffico internet, e al rientro dell'Italia, a distanza di qualche settimana, poi arrivavano bollette anche di svariate migliaia di euro. Quindi una data storica che permetterà a molte persone a essere più vicino con i propri cari, con gli amici, con la famiglia, perché ricordiamo che molti sono all'estero per studio, per lavoro, per impegni familiari o anche per curarsi, e che sicuramente dal 15 giugno permetterà a tutti quindi di poter telefonare o navigare in internet, però facendo particolare attenzione a quello che è il proprio contratto, perché ricordiamo che se uno ha un tot di minuti e un tot di giga comunque non deve superare quello che è previsto, e nel caso che questo accada non è ancora molto chiaro quali saranno i costi e gli accessori in più rispetto a quello che magari fino ad oggi non ha mai pagato. Ecco, quindi c'è molta più libertà nell'utilizzare il nostro smartphone qualora uscissimo dai confini italiani, però questa cosa del roaming vale dal 15 giugno, quindi da giovedì prossimo? Sì, vale dal 15 giugno e riguarderà solamente i paesi che fanno parte della comunità europea, quindi i nostri consumatori devono stare attenti quando andranno in Svizzera o in altri paesi, perché al di fuori della comunità europea invece rimarranno le tariffe internazionali. Ecco, quindi molta attenzione e prudenza, però una buona notizia, ogni tanto riusciamo a dare qualcosa, a dire qualcosa di buono anche agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Vuoi commentare ancora qualcosa, Carlo? Ma io dico solamente che questo è un importante passo verso un'unione, diciamo, se pensiamo a un argomento macro, e speriamo che questo sia solo l'inizio di tante altre importanti novità che i consumatori sicuramente meritano avere facendo parte di una comunità allargata. Certamente bisogna comunque fare molta attenzione ancora e capire cosa accadrà quando si supereranno i minuti, perché qua, ecco, ancora non è molto chiaro e c'è il rischio comunque di trovarsi ancora male sorprese. Ecco, va bene, quindi prudenza, controllate i vostri telefoni, ma sappiate che c'è questa interessante novità. Beh, noi allora ci risentiamo proprio con l'Adico per un nuovo appuntamento lunedì prossimo. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon weekend. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.